Ecco, noi Nicola Contini, regista del documentario Il segreto delle calze, che sarà programmato il 13 maggio alla Compagnia di Firenze e il 15 maggio all'Odissea di Cagliari. Nicola, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Lo raccontiamo a chi ci ascolta? Il documentario nasce già ormai 8 anni fa, dopo una chiacchierata con il coautore Federico, che è il figlio della coppia dei nostri protagonisti, Emilio e Angelo. Ci trovavamo a Siena, dove al tempo studiavamo entrambi all'università, e Federico, che all'epoca era uno studente di antropologia, mi raccontò dell'avventura dei suoi genitori che, dopo aver visto la loro piccola fabbrica di calze da donna fallire ad Empoli, avevano deciso, dopo un periodo di grosse riflessioni e difficoltà, di ricostruirsi il futuro, all'epoca sessantenni, in Cina. Il primo a partire fu Angelo, che partì all'età di 65 anni, per la verità. Subito dopo venne seguito da Emilia, a seguito di una telefonata a tratti drammatica, come mi fu raccontato, ovvero: o vieni qua o io non ce la fo. E quindi Emilia, fattasi coraggio, decise di raggiungere il suo Angelo in Cina, nella cittadina di Yiwu, che si trova a qualche ora da Shanghai. È un distretto abbastanza conosciuto in Cina per le lavorazioni proprio nel settore delle calze, sia calze da donna, da uomo, da bambino, da sport, eleganti, insomma, tutte le calze del mondo o buona parte di esse vengono prodotte proprio in quel distretto. Quindi la scelta della Cina come, diciamo, diretta concorrente, della fabbrica. Allora, la fabbrica all'epoca ad Empoli non esisteva più, a causa di... Allora, la loro fabbrica negli anni 80-90 era abbastanza all'avanguardia grazie all'invenzione di un prodotto che andava abbastanza bene. Poi ponendosi come concorrenti alcune grossissime realtà italiane, per varie difficoltà, non ultima l'accesso al credito, quindi difficoltà finanziarie, la fabbrica dovette chiudere, ma è una storia non assolutamente non rara nel distretto tra Empoli e Prato, insomma. Sì. Sono situazioni abbastanza ben conosciute dai toscani. Sì. Com'è stato questo impatto con un altro mondo? Allora, io per fortuna, io sono stato in due occasioni in Cina, assieme al direttore della fotografia Daniele Alecci. Sono stato nel 2012 per iniziare a filmare, a prendere, insomma, anche confidenza con Emilia D'Angelo, e poi successivamente nel 2014. Diciamo che il nostro punto di vista era abbastanza privilegiato. Noi, come qualità di documentaristi, comunque osservavamo quello che accadeva attraverso la nostra macchina da presa. Quello che mi è dato modo di osservare è stato, diciamo, il comportamento di Emilia e di Angelo in una realtà che per loro era completamente sconosciuta, o almeno lo era quando iniziarono nel 2005-2006. All'epoca, diciamo, già con 6 anni di Cina alle spalle, erano abbastanza avvezzi, anche se non del tutto, al loro agio, in una realtà che li poneva continuamente alla sfida, soprattutto per una donna fortemente comunicativa come la nostra protagonista Emilia. Non riuscire a comunicare, comunque lei, essendo una toscana verace, grande chiacchierona, grande, diciamo, con la battuta pronta, eccetera, non riuscire a dare il meglio di sé in queste situazioni un po' le pesava. E le pesava anche il vedere che tutto il suo sapere in qualche modo non veniva più raccolto dai suoi parenti, ma andava a formare tutta una nuova serie di operai cinesi. E da una parte lei in qualche modo sentiva ostili, e lei era ostile a loro, nel senso che lei imputava alla Cina, e penso ancora oggi, grosse responsabilità sul fallimento della loro piccola fabbrica. Ma d'altra parte li ammira, e ammira come la loro capacità di adattarsi, la loro capacità di abnegazione, lo sforzo di capire fino in fondo tutto quello che Emilia ed Angelo avevano da insegnare loro. Insomma, è un sentimento abbastanza ambivalente e durante tutti quegli anni Emilia comunque si è trovata di fronte a delle sfide anche con se stessa, insomma. Nicola, questa loro avventura è un fenomeno isolato, nel senso questa migrazione al contrario avviene oppure si tratta appunto di casi isolati? Allora, la cosa interessante è che loro hanno deciso di cambiare completamente la loro vita in un'età nella quale molti pensano di ritirarsi, Sì. diciamo, sono partiti molto tardi, sono partiti non conoscendo assolutamente niente della realtà dove andavano, a lavorare e a vivere. Non è un fenomeno isolato, e almeno io ho avuto esperienza di tante famiglie a Ivu in Cina che iniziano a stabilirsi. Dapprima arriva un po' come succede da noi in Italia, arriva prima il padre di famiglia, capisce che se c'è spazio per il tipo di attività che vuole intraprendere in Cina, si fa un paio d'anni da solo, che sono sicuramente gli anni più duri, e poi piano piano arriva il figlio, la moglie, eccetera, e si stabilizzano lì, anche se non è facile per degli italiani, Sì, la sì. vita a Ivu. È una realtà completamente diversa, non ci sono luoghi fisici di incontro, tutto avviene comunque attraverso l'ottica del business, Sì. eccetera. La città di Ivu, tra l'altro, viene descritta come la città di Babbo Natale, dove ogni anno vengono realizzati e prodotti tutti quegli oggettini che poi vengono venduti e regalati durante le feste natalizie. Nicola, nel corso di questi anni, quindi il tuo documentario sta avendo una sua vita, sta girando e ci sono questi due prossimi appuntamenti. C'è un sito internet, una pagina Facebook di riferimento per saperne di più? Allora, da poco abbiamo creato una pagina Facebook proprio che si chiama Il Segreto delle Calze, nella quale stiamo inserendo abbastanza regolarmente anche clip di situazioni che noi abbiamo filmato e che gioco forza non sono state inserite nel montaggio finale. E quindi è anche una realtà abbastanza divertente, soprattutto vista, come ho detto, attraverso gli occhi di Emilia, che io continuo a definire come Robert De Niro in Taxi Driver. Perché è totalmente una persona così carica di energia, così con voglia di fare, nonostante l'età, assolutamente. E quindi la voglia di comunicare che è proprio spaccherebbe il mondo pur di arrivare a raggiungere i suoi obiettivi. Bene Nicola, allora io ti ringrazio, ricordiamo questi due appuntamenti, il 13 maggio alla Compagnia di Firenze, il 15 all'Odissea di Cagliari, Il Segreto delle Calze, Nicola Contini che ne è il regista, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, arrivederci.